faraglione. E dopo, non si poteva, che era troppo freddo. Tu ci andati lì, dietro Valentina. Ma che il vento lo prendeva lo stesso, era quel vento di maestrale, freddo. Mamma mia, ma pazienza, avevo già a casa. Ho fatto una cazzata, in casa lanterna oggi, porca miseria. Ha messo il palo, ha messo il palo. Ma quale palo? Ha messo tutta la dirigimentà, già. Ma sta sono già pronte. Porca miseria, ladra. Era stata già fatta la lanterna. Muovi ti ha fatto, la ce l'ho qui, già lo sai, sai. Che quando arriva il maresciallo. Ah sì, vabbè. Il maresciallo è in licenza adesso. Arriva a marzo, vabbè. Andare. Ma c'è la vita che abbiamo detto, quindi guarda che adesso se tu vuoi salire e fai il biglietto, ti faccio il biglietto e sale, ma dico no, no. Non me ne fare il biglietto perché c'è cosa da fare. E poi andate a bagliare, io devo lavorare, ma devo lavorare, non ti confido. Una volta, due volte, tre volte. Adesso avevo la batteria bloccata, la batteria che faceva così. E la... Mi cantavo tutto delle luci, accendeva e scattava. Ah, ti ho detto, il marito era elettricista, so fare dal marito. Tu deve essere elettricista, solo per lavoro, no? Ah, guarda, la fa di nuda. Fa lavorare alle, alle ferme di Cignone, porta il fango lì. Fa di 2:40, che si sta a sempre in luce. E io, io perché magari non è abituata a fare queste cose. Io faccio il motore al giorno, che non era di più. E a Zanussi, a Trocchetto che facevo lì. Partivo la mattina e ho tenuto la mezzanotte. Ma eri pagato, eh? Sì, vabbè, già all'epoca mi pagavano bene, capito, perché lavoravo anche il sabato. Qualche volta ho lavorato anche di domenica. E ma lì uno lavora anche contento quando ci sono queste cose. Ma lavorato bene perché l'ho pagato anche bene, capito? Il problema non è a questo. Allora tu pensa, quando eravamo in Libia io pigliavo, prendevo 1.480.000 euro. Io ho preso anche 1.600.000. Però vabbè, se aveva delle azioni familiari, era visto. 1.480.000, poi se lavorato il sabato, è arrivato quasi a 1.600.000, 1.620.000. E mi ho sputtanato di vissuti, però mi sono divertito, guarda, non mi faccio lamentare. Non piangere mai sulla terra santo, vai avanti, vai avanti. E mi ha fatto dicendo che mi sono divertito, non me la sono finita. Farà, farà. Andare fra. Claudio, ancora c'è? Claudio? Ma Claudio sicuramente sta facendo cosa. Tonino. Tu ti abbassa sul televisore, andate. Non so che cosa c'è. Sarà qualche programma interessante. Il supermercato c'è una cosa. E cos'è? Il diavolo. Questo è fare, il diavolo questa strada, ma vince questo si tratta degli avuti, questo qui. Oh, sono rientrato e sono andato bene. Ehi, il diavolo questa Praga. Ehi, qua, l'hanno fatto 250.000 volte questo programma. Ehi, già lo so, è un... non ci vi annuncio. Capito, mi stavo raccontando a Gianni quando lavoravo a Zanucci, che è partito alle 8 di mattina e tornava a Zanucci. Ehi, ma troviamo la Rossia, se già lo conosci. No, tutta la settimana non c'è. Ci vediamo il sabato e la domenica con i cani, perché anche lui c'ha il cane. C'è sempre la moglie, e buh. A volte dico, come mai è Mauro? Oh, e da che era dorme lì, non rientra. Cosa fa? Rientra, poi domani mattina alle 6, oppure a Olbia, stanno facendo manutenzione al Mater Olbia. Capito? Quindi è sempre incasinato, non va mai a casa. Il lavoro di merda, cazzo, tutto qua. Io dico il lavoro di merda, non è quello che facevo io, non c'è. Ma io sono andato già, era a Città Mercato, Franco, quando era da Zanussi. Ma ha detto, sto lavorando a Città Mercato, passa così ti offro il caffè. E ha detto, vabbè sì, e qua mi lavo con il gabbiano. Ando. Buongiorno. dica. Il tecnico della reserva è uscito, re. Aspetta il controllo, c'è indietro, dentro lo cestello della goccia, della lavatrice. Già, sì, manda laterale, ma non c'è sento Candy. Ma per carità, ma guarda, ogni tanto buco, io non lo capisco. Gianni, ma lo c'è un cazzo c'è tu Candy, ci può sapere. Non è uno scendito, Candy. Ma dove sei già? Io non lo capisco, ma io guarda, ti giuro che non lo capisco. Sto sempre toccando i bomelli di goce. Ma dove sei? Oh, il palito è. Dov'era andando a laterale, naturalmente. Sono rientrato. Ehi, Anto, abbiamo perso Gianni, bro. E non glielo ho preso anche non tocchi il microfono, già, invece di toccare i bomelli. E mettiti le dita nel naso. Avanti, Anto. Capo, dai. Sono rientrato, mi. Gli aveva appena fatto la doccia, ma come è passato un buco in cazzatura. E quindi. Cos'è quindi Gianni? Ma sicuro che è Gianni, sì. Già, che stai filmando la serata, scava tutto. Ma come cavo il microfono? Fra, quello là non va, non va. Adesso c'ho l'MB4. Scendi un po' che faccio freddo, come hanno fatto la doccia. Oggi c'è caldo qua, sono io che mi ho fatto la doccia e faccio freddo. E cosa ti posso fare? Puta! Portalo qua quel microfono, te lo guardo io, forza. Cappa, chissà cosa a capo, voglio dire, l'hai pigliato. Qui se c'è qualche volontario che me lo può mettere buon appoggio quello del 550, a me. Dimmi, Franco, è bravo a fare queste cose. Io Anto non ci vedo. Io quello che non ti funziona dall'altra radio lo so che cos'è, perché l'ha fatto anche a me. Quindi va a colpo sicuro. L'altro non lo so. Gianni! Coia! Cosa mi avessi andato a finire? No, ditemi cosa stava succedendo. Rimanda laterale, cosa ne so? Ho sbagliato la maglia troppa. Cazzo, ma che lo tassi della musica? Boh. Ma che c'è, Gianni manda la terra, era un USB. Vabbè, sono quelli che succedono, perché questa c'ha il tasto, tu prendi il tasto e poi la M, USB e l'USB, sempre con lo stesso tasto, capito? E a volte magari lo premi due volte, lo premi di più e va più avanti. Già, ma tu ci fai spaventare con queste cose. Adesso lo sereno, so. Ecco, già facciato bene. Sui 9.40 e Claudio è 9.35, guarda qui sui 9.40. Io sto scendendo l'angelino e anche io ero una stessa, anche me arriva il 9.40. Siamo tutti vicino, dai, non fa niente. Io arrivo molto molto bene, veramente. Sono contento di questa radio, il lavoro che ho fatto dell'antenna, l'ho tirata su. Va molto molto bene l'impianto, sì, ottimo per la truppa. Ok, te l'ho mandata quella foto di quell'antenna. Sì, sì, l'hai mandata, è bellina, fra, non è indombrante, va bene. Ma tu vado a fare, cazzo, tratta di cuore, già. Ottimo, ottimo. Va bene, io ragazzi non lo so se rimango qua. Molto probabilmente se ci riesco entro quest'anno mi voglio trasferire. Sarà un casino perché per un bel po' di tempo non mi sentirete più, perché non lo so se metto l'antenna, se non lo so, veramente sono decisioni che prenderò una volta che vado via da qua. Ah, cosa che non ci riesce a fare senza nessuna, non fare che serioso, perché già ce l'ha, già ce l'ha vista. No, già, dove vado solo te, dove no. Non è facile piazzare una manta per fare. Nel giardino io non metto niente, perché sennò bisticcio con mia moglie, no. Sarà molto difficile, credetemi, non lo sto dicendo davvero, sto dicendo con molta serietà. Se decido di andare via da qua, decido, diciamo che al 90% è già deciso entro quest'anno di andare via da qua, di vendere e finire il mio progetto che avevo. E sarà molto molto difficile che piazzerò l'antenna, davvero. Occhio di cobola, lo vuoi? No, No, io sono abituato a scibere. Io se entro in radio entro per farmi sentire da tutti, sia vicini che lontani. Non avendo le mie esigenze come sono abituato da 40 anni a questa parte, preferisco non entrare neanche. Sì, ma non capisco dove sta il problema. Ti andi in una casa non si può fare nulla. No, lui non si può fare niente. Se ci sono le tegole, capito, non c'è niente al razzo. Quindi sarà difficile poter montare questa antenna, ma tanto. Parificare a terra non è un bel lavoro, assolutamente, perché ci vuole un palo alto, tiranti in mezzo alle balle, nel giardino, no, funziona così. Non funziona così per me, capito? Non funziona così per me, assolutamente. Comunque, ripeto, sarà una cosa da vedere, comunque entro quest'anno sicuramente da qua vado via. No, non ci sono altre alternative, la decisione familiare è quella, perché altrimenti è un investimento sbagliato quello che è stato fatto, è inutile aver fatto tutto e poi lasciare tutto in stato d'abbandono. Non esiste proprio. Vai, fra. Guarda, non molto distante da Lucia. Vabbè, c'è una bella zona. Sì, sono contentissimo, non è che... Guarda, è alla pari di qua come altezza, quindi non è un problema. Però metterci antenne sarà molto difficile. E tu che sei tragico, basta andare nel sottotetto, far partire il tuo sottotetto e spostare una tegola e rimetti una tegola finta, come farò tu? Non lo so, no, non sei più tragico, non lo gioco. Non lo so, devo vedere già, ti ripeto, qua la comodità è quella che ho, lo sapete tutti. Lì in campagna non lo so che cosa riesco a fare, cosa posso fare. È giusto così un avvertimento, nel senso che vi sto dicendo, se non mi sentite più vuol dire che è così, però non sarà facile fare il lavoro che ho fatto qua, mi capito? Ma secondo me non è neanche difficile, secondo me. Andiamo a vedere bene, virà, se non puoi pure i tiranti, li metti un bel tubo, vedo, che entra sotto il tetto, tutte cose, tanto non si costruendo che si aggazza, non so che cosa. Fa un bel lavoro, fai. Non c'è bisogno di burettinanti, non si droccano. Se va un bel dubaro non è un problema. No, non è una questione, il lavoro faccio io, non si dronca così facilmente, quanto. Prova che a Luca avrei croce sul tetto di parificazione. No, non è così. È che non è una cosa fattibile, secondo me. Per tante motivazioni. Comunque, vediamo un po', vai. Si vedrà quando sarà. Per il momento già siamo ancora qua. Avanti già. E infatti non bisogna affacciarsi la testa prima di averla rotta. Avanti, fra. Ma come dicendo già, ma di quei letti che hai preso tu, si possono tagliare, sì. Sì. Una volta che tu li tagli rimangono i contatti, se si può più o meno gli attacchi fini. Ah, ecco, capito. Quindi lo tagli praticamente tutti quelli di fini. Se lo sai meglio, tanto va maggiore di più. Sì, però con l'unica una volta che li tagliamo li tagli in giro. No. E adesso devo mettere tutte le luci qua, così a mano si vede bene, ci metto le luci da sotto, così vedo bene almeno, Gianni. Oh, dimmi tu. Ma quello che ho preso io, verde, è uguale solo. Sì, dovrebbero essere così. Ma non so, se io taglio una lampada che me ne serve una solo, cioè continuo per poter collegare. Allora, devi togliere quello che ti serve, Tonino. Devi lasciare i contatti, e contatti liberi naturalmente. Dopo i contatti tagli. E dove ci sono i contatti saldi fini. Vabbè. Perché volevo cambiare lo smicro. Ma non devo mettere anch'io qualcuno nella stazione, che fanno un po' di luce, capito? Si vede molto bene. Questo non è bestiale, è un mortone, raga. Sì, ma l'ho comprato, è l'unico. Il rosso. Ma l'hai già messo? No, negativo, ho provato, io sono Ruzzi. Ho questa della radio, la mia è bianco ghiaccio, bianco ghiaccio. Questa qui è bianco ghiaccio. No, ma io non ho smesso il lasso di un orientatore in buon limite. Gianni, ma tu te lo usi con i bianchi? Non lo so, perché devo fare, devo mettere tutti i ripiani. Se no, te lo con rossi, te lo vado con bianchi. Ma avete mai provato a mettere le LED bianchi nel garage? Da paura. Ti mando la foto, Tony, da paura, ma sei quanto è bella. Anche i blu sono belle. Ah, te la vedi, come le possiamo attuare il tuo cazzo di blu, quindi già sono qui come il buon blu. Siamo quelle con quelle che c'erano originali. Mi hanno messo i LED, ma guarda, fantastica, fantastica, anche come estetica, bellissima. E a me lo sentite, io l'ho messo nell'alimentatore, l'ho messo nell'intec, l'ho messo negli strumenti. Bianche, bianche, non mi piace da giudito il blu a me, io le radio le voglio originali, originali, bianche. E nel Galaxy che c'ha gli strumenti grandi, il LED bianco è fantastico, ma si vede benissimo, bello, illuminato, bello, molto bello. E se no me ne compro un bianco di nuovo. Boh. Eccomi. Ah, cioè, lo driver ha vinto. È il messaggio. E fa quella musichetta. Ah, vai a dire vinto, lo driver chi? Roberto Quadrato con la scena dei carabinieri. Dove? Lo driver. Sì, è molto bello. No, io il blu nelle radio lo odio, no? Assolutamente, non mi piace, io gli strumenti li voglio bianchi, non ci vedo già, è inutile, io ne avevo una di radio che ho comprato, modificata, colte, tutta celeste, ha detto bocca nel tutto e mette i LED bianchi, e io una Giovita 5, ed è bellissima anche bianca, molto molto bella. E infatti in definitiva il bianco riflette molto di più, perché questo è il 180, sono bianche delle filette. E bianco candido e purezza. Ma la radio è sempre buona, è questa. Cappa, io ti sento bene. No, sono belle, Tony, perché è bella luminosa, poi LED, non c'è niente da fare. LED bianco è veramente molto bella, va, ti mando la foto. Proprio molto bella. L'altra era giallina, non si vedeva nulla. Lo sfondo rosso, sai, grazie, no, c'è lo sfondo rosso, c'è il 7, quella roba lì, lo faccio tutto senza occhiali, ma si vede uno spettacolo. La luce fredda è la migliore che c'è. Lo so, avanti il break. Sì, Claudio Gianfranco, ciao, buonasera a tutti. Mi dice com'è la radio, che sto provando un microfono normale che ho trovato nel solito deposito? Buona, 5 perfetta. Siccome è normale, non è troppo bassa, vero? No, 5 perfetta, ti ho detto. Ok, meglio così. Ti ringrazio, ciao, buonanotte a tutti. Ciao Gianfranco, buonanotte. Vai Tony. Ciao Gianfranco, vai Pio, segnale anche radio. Lui è sempre in QRP, quindi 9 qua e siamo vicini, 9:20 radio 5 comunque. Avanti Gianni. Cappa, anche qui non è molto alta la radio, comunque c'è comprensibile. Andave. Sì, ce l'ho bianca anch'io, Claudio. E l'alimentatore l'ho messa bianca. Lui l'ho messa da alcuni apparecchi in base, due apparecchi. Sì, ma guarda, se metti dal garage bianca, bellissima, già ti mando la foto. È molto molto bella, sono belli gli strumenti, perché poi c'è il giallino del canale del frequenzimetro e ci sta benissimo, capito? Molto molto bella. Avanti Anto, riprendi. E a capo, sai, stavo parlando con Sara, di cosa stavo parlando, perché mi sono un attimino distratto. Le lampadine ed è quelle che stanno prendendo anche tu, quelle che si possono tagliare a misura e per attaccare dove vuoi. Davvero? quindi già anche uno la bambina LED a 112 volts. Sì, sì, sì. C'hanno, hai visto che c'hanno le, i contatti, c'hanno, c'è scritto più e meno, c'è scritto più. Sì, signora, all'inizio e alla fine io, però durante l'inastro, sto pensando, se lo taglio, però sono incasinato. Il telefono. Calma, avanti, fatto. E va laggiù perché dai cinesi chi si goce. Ehi, nel cinese lo vendono, l'ho comprato anch'io. Ma non cadono, non cadono niente. Sono LED, piccoli, piccoli. Non si buca, non si deve ributtare. E vabbè. Scusa, non ci cunete, non voglia. No, la roba dei cinesi, roba elettronica, sia lampadine che sia ciabatte, e cazzi vari, io non le comprerò mai più. Perché ho comprato una ciabatta e si è tutta tutta. No, ma il ciabatta non metterò mai io. Perché, ripeto, la ciabatta c'ha un 0,75, capito? A meno che me la faccio la ciabatta da 1,5, e allora sono tranquillo, che non si può mai bruciare. Bisogna neanche guardare il voltaggio, me. No, l'amperaggio. Certo, non è che ti faccio una di questi ciabatti. Che cosa? Non è che ti posso buoni sotto dire di amperare, non è che posso superare, no. Se c'ha, cosa ne so. Facciamo un esempio, se tiene 200 watt e io ne metto 300, logico che si scioglie. Bisogna sempre guardare. Ma non è il voltaggio è sempre 220. È l'assorbimento un watt, capito? Che devi controllare. Sì, sì, ma sicuramente va bene i fini, i fili un pochettino piccoli e si è bruciato da pochissimo. Io parlo sicuro, sono andato alla Eco, non ci ho preparato una ciabatta della bici. E va benissimo. Ah, io ho già pigliato chi ce la fusaro e funziona bene. Con le ciabatte sono buone le ciabatte, non sono quelle del cinese. Quindi quelle del cinese non si vede niente. Ah, io mi copro, gira gira me. Un metro e mezzo, due metri, il cavo multiplico 3x2,5 e me la faccio la giornata così. A voi la posso attaccare con la zona. Tony, ma queste che ho messo io non sono dei cinesi, queste sono LED bianchi comprati da Fusaro con la resistenza. Non ce n'è qua di quelle dei cinesi, non sono quelle, gli ho capito, quelle che si tagliano con la forbice. Questo è il lavoro che facevamo prima, capito? Per quello che sono belle, si vedono belle, belle bianche. Gianni mi ha detto di questa qua che ha preso anche lui, io ho preso verde adesso. No, no, queste sono lampadine, lampadine proprio, capito? Con le resistenze già attaccate. Non ho fatto altro che, non l'ho fatto io, me l'ha fatto chi me l'ha fatta. E ha messo le, nella sua sede, perché c'è la sede della lampadina, non si vede niente. Ma con la resistenza si vede perché c'è il coso, il termorestringente, capito? Non ho fatto un bel lavoro, però sono lampadine, sono LED proprio queste, lampadine LED bianche. Ecco, ma io mi voglio mettere queste lampadine nel Rosmetro Matimetro, in Midland, un Tio Whisky 105. Voglio mettere lì, c'ho due strumenti, la lampadina lì dentro. Vabbè, vabbè, anche perché non scalda, vabbè. Va bene, no, io l'ho fatta mettere lo stesso, non l'ho messa io, ma l'hanno messa nell'amplificatore, quello HF, perché ce n'era una, però faceva la luce gialla, no, mia zia non vedeva, so c'è il LED bianco, guarda questo, vedi bene l'accordo, faccio tutto senza occhiali qua, con questi tipi di illuminazione, con l'altra non vedevo, manco lo Smith. No, questo del cuco è stato un eco che ho preso io, c'ha le luci azzurrine in alto, ma è abbastanza chiaro e bello, guarda, si vede bene. No, questo è originale, tutto bianco, frequenzimetro è giallino e il canale è giallino, come la manuale. Avanti a chi tocca. Io ce l'ho verde frequenzimetro. L'hai fatto tu? No, no, io l'ho preso già così. Ah, boh, allora li hanno cambiato. Che originale è giallo, non è verde. Ma io mi ricordo che fosse 18 o 24 anni fa. Il Galaxy che c'ero io era sempre verde a frequenza metro. Non so, io c'ho l'ultima serie di 6 bande, è giallo. Ho visto anche la foto, la nuova. È giallo. Canale giallo, frequenzimetro giallo. La luce è lo stesso, è giallina, però io gli ho messo il LED bianco. Qua canale verde, frequenzimetro verde. E TXCW FM AM USB RSM si accende nella pallina rossa piccolina. Sì, a me si accende la cosa, come si chiama, si accende la luce della trasmissione e poi tutte le altre come commuto mi dà tutte le AM, FM, SSB, USB, CW, tutto mi dà. Gianni c'è ancora, sì. Ma lui ha letto il telefono. Al telefono Gianni. È al telefono Gianni, sì sì. E si conferma a te quindi ricordo di Vittorio, di Cesaro. I modi sono molto superiori a quelli di cinesi, perché io ho montato di tutti la stessa, la rete stessa. Volevo chiedervi una cosa, c'è qualcuno lo sa. Dici tutto, poi qualcuno che lo sa te lo dirà. Che la fa? A Pordotorres, la stazione dov'è? Beh, questo lo sa che tutti lo sappiamo. E lo sa anche, penso, abbastanza Claudia, perché lui è il Pordotorres. Scappa. E che ci devo andare, ci devo. Però dove ti... dove ti lascia? Praticamente la stazione ferroviaria o che cosa stai cercando? Stazione ferroviaria. Ecco, allora, se tu vai in macchina o in pullman che scende nella piazza, c'è il municipio o la chiesa o il fianco, gira a sinistra o sinistra, più in giù ti porta la stazione. Io devo partire da qua. Devo partire da qua, prendere il treno e fare a Pucciodorra. Capito? Tu puoi lasciare la stazione, messa più dritta. Oppure puoi passare anche all'interno dove c'è il muletto. Giusto Claudio? Cosa hai detto tu? Allora Antonio vuole sapere se vuole mandare il treno da Sassari a Porto Torres. Vuole sapere dove è la stazione. Perché partono sempre da Sassari i treni per Porto Torres. A Porto Torres stazione non c'è più. Vabbè, non c'è più. Certo che parte. Tutto questo lo posso confermare perché più di una volta che io devo venire a casa, passo anche da Sant'Orsola, mi blocco, passo il velo chiuso, il treno va da Sassari a Porto Torres e passa. Ma non è nel Ranghero quella? No, Claudio. Con il Ranghero passa la carica. No, non so, Tony, la verità. Io sapevo che la linea di Porto Torres era dismessa da quando non c'era più l'attracco della nave lì della Tirrenia dove c'è la stazione, invece sicuramente hanno cambiato e da tanto tempo io non ci vado in quella Porto Torres, in quella zona, capito? Quindi non lo so. Comunque andando dove c'è la caserma della Guardia di Finanza, la stazione, per andare a Ponte Romano, Antu. Allora è lì, dai, perché... perché il biglietto l'ho già fatto, quindi alla fine c'è. E te giù vai, quindi è. Però c'è il Ponte Romano. Oh, la testa di centro. Dove mi devo ammazzare? Dove c'è il Ponte Romano lì? A produttore. Lì è la stazione. Ma scusa, ma non si può dare biglietto di blu, ma... No. Anche tu dici, ma con te non buca mai la ruota. Ma il blu, ma va di prima, però è già anche io. No, perché non ce n'è. Ah, ma ce n'è come più prima. Sì, che ci sono. Di domenica. Non so domenica, questa no. Boh, non te lo so dire. No, la domenica non viaggiano. Domenica niente, domenica solo tre. Ah, anche pagato una cazzata. Cos'è, un euro... Li ho già presi, 1,90 euro. Certo, 1,90 euro andare, 1,90 euro, 4 euro, non è caro, Che cavolo c'è, da ma quel microfono che c'è tu, che problemi ti sta dando? No, c'è, a volte esce, a volte no. Perfetto. Io la sai cosa c'è? Cosa lo vedi? Il TTT. Il TTT, da dove ci sono i contatti, non sono stessi. Tu sai di un po' di... di qualcosa per contatti sul TTT e vedrai che lo risulta. qua, ci stavo pensando pure io. Ma tu pensi sempre in ritardo. Sì. Mamma ragazzi. Non sì, quello che vuoi qua ce l'ha portato, ci sono dei contatti. E quando si prendono i contatti vanno praticamente fissati uno dall'altro, capito? Sicuramente quando tu chiudi il microfono c'è qualche contatto che ti sta portando, quindi va a fare quel problema. È come un pistoncino che va dentro. Esatto. E se no lo prendi, lo smonti, ti dici che l'ho fatto io, lo finisci tutto e lo rimonti. Allora, lo sai che non ha più capato la vita funzionava. Cosa? Quando mi metti questo è quello che fa. Ehi! Cosa tu? Perché ho provato a smontare il coperchio. Ed ero qua vendendo. Nigga ha detto lo dovrà punire il coperchio e me lo dovrà fare. Non so io che cos'è, ma non so anche Franco che cos'è. Già, ti ricordi che sono il suo? E io me lo ricordo. Ti ricordi quel microfono del portale, quello che ho detto qua? Sì, ha bisogno. Parlava presto, era due cose che doveva bruciare la prima, la seconda, la terza. La mia, la becco di questo per bruciare la parola. Io ho messo il macchino a male. Tra, mi ascolti? Sì, sì. Ascolto bene, sì, va bene lo stesso. Va bene, la modulazione non è a livello dell'altra, con la radio, però... Certo che sì, certo che benissimo. Questo è il microfono originale. Anda bene, così mi distrai un pochettino del letto che a me è posato, non potete mai già... E invece me l'ho messo sentato, ma ti guardo la bruna, ho fatto le tre lunghe, il bicchio, e quella giornata lì. Tu, aspetta che provo il microfono normale anch'io, Tony, che non l'ho mai provato, vediamo se funziona bene. Sono buoni io qua, questi microfoni. Veramente mi noto sempre radio buona, ragazzi. Aspetta lo provo io, perché già io c'ho una modulazione da orco. Aspetta che stacco questo. Da orco. Poi io ho provato quel microfono che mi ha dato quella persona. E beh, buono? È una bombetta, Solo grazie, visto. E gli ho rifatto il filo perché era rotto. L'ho tutto aperto, gli ho rifatto il filo, gli ho saldato bene, le ho tutto stampato. Quindi ciò va benissimo, ho cambiato la batteria, andava. Addirittura se lo pilotti con l'alimentatore da 1,5 e conta ancora di più. Non va il microfono normale. Non fare il tutto per chi non vede la parola. Ehi, è buono Cla, una bella radio, Buono, è il microfono normale, originale Galaxy. Non l'avevo mai provato, l'ho ancora dentro la busta. Sembra che vada bene, no? Perfetto, bella radio, anche forte. Te l'ho detto, faccio la modulazione da orco io. No, io lo uso ogni tanto, lo uso, tocco il carro, lo metto dentro e mi uso anche normale, così mi sdraio a letto. Allora usiamo anche questo, Cosa hai detto, Arturo? Ha detto, cosa mi può spruzzare, Brento? Nulla. Nulla devi toccare, cazzo, non toccare niente, che è il condensatore quel microfono. Cazzo, lui anda, lo svitolo, lo spray, il condensatore ci brucia tutto. Lascialo stare così, già lo mettiamo a posto, Antu. Antu, una cosa che è pure il corpo tuo, che scusa, scusa, di questo. DRC non mi dici. Così da due grandi più. Scusa di quello che c'hai tu. Devi comprare la fusione, quello spray per i contatti, ma non quello che è, quello che è. Non quello umido, l'altro tipo di spray, quello a secco. Già ce l'ho io quello lì, Anto, no tocca nuda, cappa. Se no, ma carichi si bruci adulto. E se no, lo sai cosa fai, come ti ha fatto il viaggio? Ha messo la cosa e ha la cosa, vedrai che funziona. Ah, ma problema, no che faccio un cernaio. Quindi, Tony, lasciamo anche questo, già va bene. Sì, io lascio questo adesso. E anche io lascio questo. Tanto stiamo facendo salottino. Ma non è come fai il da ienti. È fatto. Era uno lontano che se ti affrutti allora si va bene, dai. E ci sta tra noi, dai, va bene, dai. Consumiamo anche meno batteria. Allora, no, ma già va bene, l'avevo già provato l'altra volta, va bene. Bene, mi ascolti, Fra. Una bombetta, va benissimo. Segnale non c'è 40, il radio 5. No, è già questa radio che esce e usci in bacchia, esce mi tocco che... io mi sono anche sdraiato nel letto. Allora, qua, questa roba non gli ho fatto mai niente, da quando c'ho, quanti anni c'ho io? Un po' di anni, altro ma te lo diato di G. Sto prendendo il microfono. Cioè, il prendendo il microfono ci sei odiato. Forza fatto! Attenti, c'è bene, c'è questo microfono. Ma non sono accorto, no? Volevo dire la mia e il pesci di Muruguizzo. E chissà che avrei fatto, tu. C'è il microfono, c'è il microfono giallo. Dì la verità, ti sei dimenticato che c'è il microfono preamplificato, stai attento. Ma tu la fumi? No, no, no. Ma com'è? Se ci viene buttate pure. È bello chiaro, si è sentito. Bobo ha detto, ma c'è un'interferenza, o tronelli. Secondo me stava respirando male, perché lui respira da bocca la fine. No, siccome era tutto tempo brutto, no? Ha detto, ma non è che tronelli, ma c'era Antonio che... Ma non lo so, è successo tutto in contemporanea. Vabbè, di lasciare i puttassi. E cura c'è benzina, raga. Ma non è che ti metta giapponese? Acci picchiacci. Vabbè. Ui. Cosa volete che vi dica? Cappa di roggio. Ma tu c'è un aspetto, ragazzi, lasciamo da bere. Tu mi hai regalato la zaffitta oggi a Piscà. E non tanto era pizzelli, taglieni, formaggio, salsicce. Vabbè, no, mi ha mandato un messaggio, voglio mattina andare a ritirarmi l'altro microfono, che le connessioni sono pronte. E quindi vai mattina passo veloce, perché poi serve la macchina a mia figlia, che domani piove, e quindi va in macchina, solo va sempre a piedi, via Roma. Così vado, mi ritiro il tuo microfono la mattina, che l'ho portato a fare le connessioni, all'altro tarne più tre, così domani lo proviamo a vedere se esce bene come l'altro. Ma ti annuncia questa radio qua? Ma qual è? Quella che ti ho dato io? Il 780. Ah, ti dico solo che quella radio lì è la seconda, la terza che ho comprato. Quindi stiamo parlando del 430, ce l'ho 10 anni, prima avevo quella, quindi è un 12 anni ce l'hai tu con la radio. Ma niente che ho fatto. Ma questa è quella che ha fatto l'uomo del monte, vedi? Sì, quella è quella che mi ha aperto, è stata fatta, insomma, non modificata, comunque aperta per la M, me l'aveva fatta, sì, l'uomo del monte, CH23 di Chiaramonti. Dopo quella lì avevo preso il 430, infatti il 430 ce l'ho 10 anni e quella ce l'avevo 2 anni, quindi 12 anni ce l'hai quella radio, 12 anni, no, toglietevi dalla testa, 140, 680 e 430 sono quelle che danno meno problemi, meno problemi. 440 è un'ottima radio, bellissima, c'ha di tutto e di più, però una radio che con gli anni crea sempre il solito problema del VCO, con gli anni però, a volte poi revisionata, nuova eccetera, dura abbastanza, però dà meno problemi rispetto a queste, al 140, 680 e 430. E diciamo del 440 rimane molto più bello, ma il 640 pare che si funzioni chiaramente. Se non c'è l'accordatore, il quartorato, ma io c'ho la FIGUA 150, è accordato spesso. E il 430 è molto bella anche esteticamente, molto bella, come il 440, la linea così, sono 430 e 440 era il top, poi è nato il 140 e poi il 680, il 680 è l'ultimo che hanno fatto, con la scheda dei 6 metri, capito? Avanti Tony, che vado a coprire il cane che si è svegliato. Tu mi sei che io vado a bere. Va d'accordo, va bene. Tu sì. Va bene, me lo proietto per te. Antonio, hai almeno arreggiato. Ehi, ha già messo un germaglio in occhi. Eccoli già. Ehi, che va che secondo come lo apri un gennaio è passato tutto, lo più pieno. Gli azzecci, no? Gli azzecci, a voglia. Questo lo apre anche tutto, eh. Io pensavo che era un colpo di testamento, ma sono una gitruta. Vabbè, è capitato, cosa dobbiamo fare? Siete. Quando è la devi fare? A chi ti faccio fare basta? La buona di babbo dice sempre, non ha pagato la pizza, ce l'ha fatto pure. Sono i lampi e tempo maro. Ma sa di uno, la persona mi ha detto, ma tu avevi basso in chi da in chi, mi ha detto, già non credo che avevi basso, via. Dito dirà. Sì, ehi. È un solo, e con uno slancio metti con dopo, cioè c'è una scala qua. Hasta fino all'ultimo gradino, il codo non è perché è stata sombra. Ehi, per il lavoro che fai, già sei gini quanto però te l'ho detto, cioè sei giovane, beh. Io all'età tua facevo i gaffioli, mi mantenevano la mano, a modo di dire, no, nel senso buono. Allora faccio come trovare il garraggio. Eia, libero. Libero, vai. Non so chi sia rimasto, finalmente, un po' libero. Omi, io e Tonino stiamo usando il microfono normale del Galaxy, com'è? Va bene, io lo so che va bene, sembra amplificato. Io sto usando il normale, io e Claudio. Sì, però fa un po' più Claudio con normale, ce l'ha, avendo la voce più acuta, rirende un po' di più, ma si sente bene da tutti e due. Sì, me l'ha già detto a Torino che io ho la voce da orco. Ma funziona che tu densi? Cosa sei battendo l'app densi? No, che tuo microfono, densi. E il satellite non ti fuzzato ora me. No, chi sta a cosa? Gianni, ehi, lo devo fare tu, mi dici tutto quello che ti direi. Ma vedendo, dici, funziona il tuo microfono. Hai già che tu vai. E invece c'è tu dietro. Antonio, domani piove, Antonio, domani è temporale, stanotte è tutto sereno. Di drone sono già i figli. E ha messo capisatoci, e già senti su mezzo decimo con il microfono di tavola. Adesso sto usando il denci, non so se c'è bene che cosa. Denci, non hai sentito? Cos'era a tavola? No, te l'ho presente di M1000. Tipo il rimane. Io c'ho il microfono a Silvia. No, io microfoni sto procurando già, forse me lo danno, deve decidere perché era del padre che era un vecchio CB di tanti anni. Te lo ricordi quello della Turner? Cosa M+2 si chiama? Dice che va molto bene col Galaxy. Sì, cosa ce l'hai qua? Eia, con la retina bianca. La griglia bianca e il celestino. Eia, quello lì. Ehi, andavo a forza perché il cazzo mi tocca, vedi, fa il mare. Ehi, grigio c'è lei, un grigio chiaro. Ehi, quello lì. Ma è un bel ragione, che devo una mano da orco, pa mantenirlo. Questo c'è la voce orco, più che la mano, va bene. Allora, adesso vediamo, se me lo va, lo proviamo, c'è anche l'attacco a 4. Vai, provo a cercare, perché babbo c'è tutta una scatola, ordinatissima, ma già deve essere lì. Detto, se lo trovo te lo do. Va bene, manda Garcina. Mi domani vado a ritirare l'altro Turner, mi già. Mi hanno mandato un messaggio poco fa che le connessioni sono pronte. Il Benzi, il Turner P2U, quello lì, è in vendita sui Benzi. E quanto costa già? Per vedere, no, questo me lo sta regalando. Quanto costa? Così le faccio un regalo. Non me lo ricordo, però in America è 60 dollari, però, capito? In dollari. Quindi il dollaro è 60 dollari, una cinquantina di euro. 64. Sì, 52 euro, va. Non ti futtini. Cosa? Ci non ti futtini. No, io non compro niente fuori. Mi ho sentito di cotte di crude questa settimana, se c'era la settimana scorsa, anche lì. Con questa gente che compra da fuori, frutti duraliti hanno imbigliato, no, questo è qua Sassari, il mio carissimo, il figlio di un radioamatore che non c'è più e c'ha queste cose così, capito? Stanno più treno, me l'ha dato lui. E adesso mi ha fatto le connessioni anche all'altro, che mi ha detto è diverso. Se non si è sbagliato mi ha dato pure un super sideric, perché c'aveva anche il super sideric, ma per me sono tutte e due uguali, non cambia niente. Domani mattina vado a ritirarmelo, prima che vada a lavoro, ma tra le 8 ci vediamo giù al bar e te lo do, va bene? Figlio di Gianni. Ah? Figlio di Gianni. Ehi. Me l'ho immaginato, lo sa. Sai benissimo che il padre del radioamatore che è morto non c'è più e sai che è un mio amico, quindi è normale. No, lui mi ha dato tutti e due. E adesso ho detto che deve cercare anche se trova il più due, mi dà anche il più due. Perché il padre li usava con le radio praticamente tipo la linea Drake, tipo la linea Uniden ci aveva, il Tentec, e quindi usava quei microfoni lì, capito? Quello lì c'ha la batteria a 7 volts. Già me l'ha detto, sì, ma io ci sono le batterie a 7 volts. Ando dalle Ginesi Virani, a 7 volts, quelle mini. Allora, si usavano le mie, non le c'erano al mercurio, adesso con le batterie al mercurio non le fanno più. Praticamente ci va una batteria di macchina fotografica che invece che da 7, da 6, 5. E quelle sono un po' piccoline cicciottelle. Esatto. Già ce l'hanno i cinesi, l'ho già visto. Col cinese che c'è Piazza dei Segni va tutto. Io vado lì anche a farmi cambiare la batteria dell'orologio. Capito? Quindi già va bene. E domani mattina ci abbiamo alle 8. Me lo faccio dare, così domani lo provo a vedere se va bene come questo, perché mi ha chiesto anche se ero contento. Ehi, a voglia, non volevo, ha detto, stai pur certo che la roba che aveva babbo è tutta dentro le scatole. Non ho toccato niente da quando è morto, io sono entrato 2-3 volte in quella, nella stanza, è ancora tutto come ha lasciato lui. L'antenna ha già messo a posto il traliccio, tu è diventato un radioamatore, lo sai, sì? No, è lui. Sì, lui, il figlio, si chiama, lo sai che si chiama come il padre, Junior però. Gianni, cognome Junior, capito? E ha preso nominativo del padre, è stato promosso radioamatore, ha fatto l'esame, è promosso e gli hanno dato, ha richiesto nominativo del padre, gli hanno dato. Ah, e ti stavo dicendo, traliccio è già pronto, l'antenna sta facendo le manutenzioni e penso quest'estate la tiri su. C'è una bella antenna, è poco i scivolci anch'io. Ma il baracchino non lo metti? No. Babbo dal contrario al baracchino per mille motivi e quindi non metto niente. Tira sull'antenna, mi ha detto, tutto pronto. Sto solo facendo manutenzione, solo che è sempre impegnato, lavoro. E io lo conosco di vista perché fa volontariato. Non ne vale più volontariato, è entrato al 118 fisso adesso. Dove è l'ospedale? Al 118, proprio fa servizio in ambulanza. Allora, 118, basta che tu sei convenzionato, lo fanno tutte le associazioni di volontariato. Poi c'è col medico a bordo, quello lì che parte dall'ospedale, che ci sono i medici dell'ospedale, che è praticamente una cooperativa ospedaliera. No, io non me ne intendo già, posso sbagliare, dipendente altri può essere? Sì, dipende, è una cooperativa che ha servito l'ANSS, quella che fa 118. Sì, lui è dipendente altri praticamente, fisso, tempo indeterminato, stipendiato, anche bene, solo fai turni, capito, fai turni anche in ospedale, fa anche le notti, quindi per quello è sempre impegnato, incasinato. È un bravo ragazzo, ha un'educazione che è da vendere, peggio di Rubabbo, Rubabbo è pure se è vero. Vabbè, comunque, domani mattina ci dobbiamo vedere comunque. Avanti, Tony. Tony, Camaiado DJ. Sta bello sto microfono, nuovo, con la scritta Galaxy originale, morbido, la spirale, molto bello, non l'avevo ancora usato, era dentro la busta. Era uguale, era dentro la busta, l'ho tolto fuori l'altro giorno perché non c'avevo mica profondamente nelle guance, cioè su questo. Ah, c'è bene, c'è più. Alla grande, avanti Antonio, e Franco ancora c'è, Franco Franchi. Sta tutto anche lui. Aspetta Franco, avvisi. Aspetta. Mamma mia. Dice che già si è ripigliando, dice che è stato male. Non ho avuto modo di telefonarle. Però mi pare averlo sentito stasera in radio, ho visto che stava meglio. Questo sono contento. Ah? Chi è che stava male? Antonello Motopompa. Se mi dispiace, non lo sapevo. Ma è Antonio, io però ho sentito stasera in radio, ho visto che già si è ripreso, ma niente di grave, spero. Forse influenza, un po' così. Ma ho detto che è influenzato. Oh, influenzato, sono che attento a contagiare la moglie. Capa, così me l'ho detto. Ma comunque già dovrebbe stare meglio. Dovrebbe stare. Speriamo. Il nostro mitico moto pompa. Ma Luca, ma in come va fino a fatto? E sono arrivato, Bravo. E già. Cazzo, una bottiglia d'acqua non ho detto, ma a me sono affetto quel formaggio. Cazzo, hai mangiato il formaggio con lui? Ma il formaggio non è germe, già. Ma chi l'ha portato? Tu, già. Lui, me l'ho detto da uscire, già. E ce l'hai a casa? No, se ce l'ha portato. Quello lì, io ho un amico che lo faceva di buon giorno, detto che non è stato facendo perché ha detto che gli ha fatto male, non lo voleva anche ricoverare. Abbiamo fatto una cirurgia di stomaco, me ne sono salito a fare una magnesia, allora, stavo scoppiando. Ma chi era? Quello ci abbiamo mangiato a Piazza dei Sceni già. Ofra, non devi prendere il latte, lui metti un bel po' di latte crudo e ti passa il bruciore di stomaco, se no non ti bacia a vivo. No. Lasci trovare. E vabbè, ci ho messo un orticchio di limone in mezzo. Latte il limone brutto che è acido, grazie. No, è meglio un po' di citrosolina. Cazzo le mo' a debigli. E ce l'ho messo in mezzo. Ma non è passato. Ma è formaggio tutto, va bene, ho mangiato un bel. Buonanotte Mittoni, buonanotte. Nervi duro messaggio, buonanotte. Ma se è buono e naturale non dovrebbe far male però. No, mi era venuto un messaggio di Tonino, buonanotte. Buonanotte, no, devo essere su questo. Ogni notte mi mandano la buonanotte e io lo rispondo buonanotte. Se mi torno adesso domani mattina risulta con te. Oh io. E quindi già vi siete scaldati, poi butta anche tu. No, non voglio sapere quello di dire, basta. Tu sapevi che lui aveva fatto la giusta. Mezza bottiglia di sciabucca ce l'ha crepata. Allora me lo vedo buttare la sciabucca a piccabù. Io non so cosa mi portavo quando la pesca, il tempo scò caffè caldo per riscaldarmi. Sì, pure noi con Franco. Ci mandati all'Aci, cazzo abbiamo un freddo già, cazzo d'inverno, ma freddo di mattina presto, la ballare la sciamba, come entrambi in Magatia, fra mica ha aperto Magatia e io prendo il caffè, e abbiamo le canne sempre gettate, pronte, calate, e passiamo, caffè e sciambucchino, e via, torniamo a vedere i ganni. No, tutto a po', aiuto, che ci vogliamo un altro ammazza caffè, e stavamo andando e tornando, ora vini, manco i ganni, ma ho avuto più. Ah, frate, a me, mamma mia, come sto, cava le canne, non c'è gioco, cazzo faccio la recce, scimmini musichegge, non tengo manco uno, il morso, e tu mi ci sei chiedere i ganni. E se no l'ultimane, perché ingaggiare per pompare l'ultimane. Ma sì, a boccato, si è buttato un ganno e tutto, perché noi eravamo al bar, tanto non avremmo combinato che... E quanto era che ho preso lì, ti ricordi che ho mia bici? L'ultima chiama che ho fatto Lugariello, E io cazzo, un bambino sembrava, grazie a poco era matura che... Partita dalle camere, tutti quei, e scolavano la legge. Belle pescate hai fatto, fratto. Hai fatto veramente belle pescate. Anche Gianni. Ma io quando venivo con te non c'era Cristo, cazzo. C'era Teorate e tirava fuori e lancio. Cazzo, la macchina là si andava via, cazzo. Teorate solo per le calamari, succhie, di tutto. Ho buttato tanti di cresciuti con la trattatura, guarda, come la canna solo 250.000 lire a lei, una canna. Infatti a me lo chiamo che mi è uscita la canna. Tu vali, cosa non ci puoi fare, per carità. Poverino, siamo Mario, cazzo. Tutti i santi giorni prendevo il caffè con lui. Il caffè la mattina prendevamo, quando ne via Pascoli, poi a mezzogiorno. È sempre signor Claudio, sempre signor, mai mi ha dato del tuo, dicevo, signor, ma mi dia del tuo, io sono molto più giovane, no, lì per me è sempre signor Claudio, e poi ci prendevamo il camparino verso mezzogiorno, un uomo eccezionale, cazzo, quando non ho compreso perché ha fatto questa cosa che doveva fare. Allora, signor Mario, il giorno prima, lo stesso giorno, andavamo con me facendo colazione assieme, eravamo io, Mario Sorbice e il vice del fuoco Pietro. E praticamente gli abbiamo detto, dice, io Mario ha preso il cappuccino, ha preso il cappuccino, perché lui non aveva fatto cappuccino. Ha preso il cappuccino, poi ha detto, torno subito, che vado un attimo in negozio, devo fare una soluzione e vengo subito, aspettatemi qua e qua arriva. Tutto tanto si è sentito colpo di pistola, due colpi di pistola che ha sparato sotto pancia, capito? Lo so, purtroppo è stato triste per la comunità di Via Pascoli, perché era un uomo veramente conosciuto, è un uomo molto molto sereno e tranquillo, ma non si capisce ancora oggi perché l'abbia fatto. Molta gente dice un sacco di fesserie, però io non ci credo, perché l'ho conosciuto ed era una persona veramente in gamba. Tu conosciuto l'hai già? E a voglia, volevo a pescare, l'ho visto, si portava le canne colpo di a canna, di quelli grandi, ci metteva tre canne, e andavamo a Castagna a pescare. Questo quello conosciuto, ma dice che aveva un tumore, forse per questo. Semplicemente, il tumore di pari. Cioè si può aspettare e far fare il soccorso, cioè ci sono le cure, perché fare un'azione del genere? Ci vuole coraggio ma fare una cosa del genere, cioè. Un tumore al cervello ci aveva anni. Coraggio che non ce l'ha fatta più, non lo sappiamo mai cosa rigirava per la testa, non lo sapremo mai cosa. E magari da quella conseguenza magari potrebbe essere passata anche un'altra, perché quando sono così anche il sistema nervoso ragiona diversamente. Vabbè, però tu sempre una forma di coraggio, è stato veramente coraggioso, nel senso che non è facile fare una cosa del genere. A prescindere da tutti i problemi che puoi avere, è sempre una cosa molto molto difficile da fare, io non ci riuscirei mai. Lo so, però bisogna vedere cosa gli girava su per la testa in quel momento. Ora mi dite che non avrà più speranza e magari, cioè, magari ha ragionato male per quello. Non lo so, magari sono successe più cose in contemporanea, magari una persona così ha fatto quel gesto. Non lo so, sinceramente non so cosa dirti. Attento, Tonino Pedivella, cazzo mi scende come davvero, vai già. Ehi, ha salutato, era buono. Magari vede che non c'è rimedio, magari ce l'hai mentata, dice da sa che deve morire, più di non soffrire, ha fatto quello che ha fatto. purtroppo è così. Ma quanto è luce qui adesso? È aperto? È aperto? Boh, ma c'è tutto sotto sequestro, lo stanno vendendo, boh. Tutto sotto sequestro, per lì... Cioè si è sparata una persona dentro, non è che puniva in di cuscino. E poi sembra che c'erano anche altri problemi finanziari, quindi non lo so.